Dialog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Wow. Buona gelida serata, signori. Sono il dottor King Schultz. Sei un dottore? Dentista, nel vostro campionario ritengo sia presente un esemplare che ambirei acquistare. Come ti chiami? Django. In questo caso sei quello che sto cercando. Ehi, hey, non è in vendita. Ah, beh, molto bene. Get up! No! Se fossi in te, andrei a prendere quel cappotto. Uccidi persone. Questa mattina, dopo una settimana dedicata al sociale, voglio saggiare profondamente la parte migliore del nostro pubblico, quella che in realtà ama Quentin Tarantino. Perché? Perché naturalmente, essendo uscito l'ultimo film di Tarantino, Django, da venerdì nelle sale italiane, essendolo andato a vedere con attenzione io e con spirito di servizio per parlarne questa mattina, vorrei riproporre una visione della contemporaneità, che è quella di Tarantino, secondo l'occhio per alcuni distorto, per alcuni profetico e lucido, di questo grande uomo contemporaneo. Il film Django in particolare è stato preceduto da fortissime polemiche, perché racconta la storia di uno schiavo nero che si è affrancato grazie al dottor King Schultz, che è un cacciatore di taglie, che una notte lo va a prelevare nel corteo tristissimo degli schiavi incatenati portati alla vendita, lo prende e comincia a usarlo come suo alleato. Lui faceva il cacciatore di taglie, per sterminare altri delinquenti, malfattori, uomini bianchi che lui come cacciatore di taglie uccideva per ottenerne il riscatto. Lentamente Django userà questa sua maniera di porsi nei confronti dell'uomo bianco per diventare una sorta di simbolo, una sorta di eroe, supereroe anzi, della riscossa nera. Questo ha fatto naturalmente arrabbiare molte persone, il primo tra tutti lo strafighetto regista Spike Lee, che ha detto che è un film fortemente razzista. Perché? Perché non usa gli strumenti del politicamente corretto per mettere l'uomo bianco di fronte alla grossissima responsabilità che fino appunto al 1860, l'anno in cui in Italia facevamo finalmente di una infinità di piccoli stati una unica grande nazione, non si colga ironia nelle mie parole, gli Stati Uniti ancora discutevano se era giusto o no prendere esseri umani, portarli al mercato e venderli come se fossero animali. Immaginate che oggi ha molte più garanzie, dico fortunatamente, grazie a Dio, ringraziano anche i miei animaletti, un cane, un gatto, un qualsiasi animale da cortile, piuttosto quante ne avesse allora un essere umano. Fa vedere Tarantino in maniera implacabile, in maniera incontrovertibile, il fatto che allora gli esseri umani che venivano dall'Africa venivano considerati come oggetti da fatica, oggetti da piacere, oggetti da divertimento, e non avevano assolutamente nessuna dignità umana. E non si parla di tantissimi anni fa. Evidentemente gli Stati Uniti non hanno ancora ben elaborato il concetto di questo loro terribile passato, ma anche nostro, perché la schiavitù era perfettamente accettata anche alle nostre latitudini, è considerato perfettamente normale, tanto la notizia di ieri, i gadget del merchandising legati al film Django, cioè le bambolette dei vari protagonisti, sono state ritirate dal mercato perché, dicono gli americani, non si gioca con gli schiavi. 800 24 00 24. Quanti conoscono Tarantino? Quanti hanno affinità o affezione per la sua lettura dei tempi che stiamo vivendo? Quanti hanno visto il film Django? Ancor meglio, perché ne parleremo questa mattina. Tequila. Come ti chiami? Django. Sai come si scrive? D-J-A-N-G-O. La T è muta. Lo so. Umberto, andiamo. Mr. Moghi, prendetevi cura del mio nuovo giovane qui. Trovategli una stanza con un letto soffice e portategli una puledra che gli lecchi il palo. Ma tienti pronto a partire per Candyland domani mattina, siamo intesi? Sì, signore, messie Candy. Prima però, Roscoe, da Fred qui una grossa birra. Scolati la giovane. Te la meriti. Sì, signore. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Allora, Sansonna, questa mattina, come sempre ha fatto nelle puntate precedenti dedicate al cinema, mi aiuterà a tracciare un'ottica più generale di quello che è Tarantino. Tarantino non richiede necessariamente una grande, profonda conoscenza dell'alto cinema, ma Tarantino, per essere capito, compreso e letto, richiede una profonda conoscenza di quello che è sempre stato considerato per noi, per le nostre famiglie, per i nostri genitori, il sottocinema, il cinema di genere. Tarantino riporta a dignità di elemento pittorico e poetico internazionale il western all'italiana. Django è la maniera per rileggere un passato molto faticoso da digerire dell'America attraverso la lettura che ne fecero, un po' come faceva Emilio Salgari, che parlava dei pirati senza essere mai uscito dalle porte di casa sua. La stessa cosa i nostri registi raccontavano il Far West girato nelle montagne della Tolfa, molto immaginario, ma è la chiave giusta, cruenta, splatter, a grande effetto per raccontare quegli episodi. Infatti qui abbiamo sentito Franco Nero, che Quentin Tarantino recupera nel suo film in questo cameo particolare, perché il primo Django, quello originario, fu proprio lui. Franco Sparanero, che all'epoca non era ancora famoso, il suo vero nome, non era ancora famoso, Corbucci lo impiegò in questo film affidandogli il ruolo di questa sorta di sicario che gira in questo West fangoso e desolato con questa cassa da morto in cui si scoprirà che poi c'è una mitragliatrice che poi, con cui falcerà tutta questa serie di nemici vari, da messicani insorti, messicani ufficiali. E in questo film lui lo recupera e gli fa fare invece un italiano che compra dei mandingo, i lottatori neri con cui si baloccavano nell'America del Sud, combinando questi incontri. Però tornando al discorso che facevi tu su Tarantino, Tarantino annuncia in maniera postmoderna la fine della storia, soprattutto in questi ultimi due film, ovvero la storia è finita e non c'è più nulla in cui progredire, è meglio rivederla giocosamente come una sorta di grande carrozzone allegorico, come un gran teatro del mondo in cui ricollocare questi attori e i loro monologhi, i loro dialoghi splendidi, le loro situazioni, e in cui da squassare col grande spirito di vendetta di questo Django che rivoluziona la storia, così come Hitler finiva bruciato vivo in un cinema in Bastardi senza gloria, qui appunto c'è la vendetta del nero, coreografica, sontuosa e immaginifica soprattutto. Comunque c'è un grande intento di Tarantino di rileggere le grandi tragedie della modernità: l'Olocausto, la schiavitù in America in generale, in particolare, con la sua chiave, con una chiave totalmente surreale, e andando a ripescare degli elementi che appartenevano a una sorta di subletteratura, almeno secondo i grandi e ufficiali lettori dei tempi moderni, capito? E ci fa capire soprattutto che recuperare il western all'italiana, che a sua volta era già un recupero riletto e rimediato, e riportarlo come simbolo per leggere gli aspetti più pericolosi e più dolorosi la realtà americana, è un triplo salto mortale che a noi fa comunque onore e piacere pensare che in tutto il mondo vedranno questo film, gli appassionati Tarantino sono tanti, vedranno a un certo punto una canzone cantata in italiano da Elisa che canta una canzone in italiano, vedranno delle citazioni nostre. Quali sono i tipici elementi cinematografici che lui trae dal western all'italiana? Ma in realtà questo lui l'ha definito più che un western all'italiana, un southern, un genere southern, cioè in realtà c'è il senso di vendetta del cavaliere solitario, che fu l'archetipo, fu il Clint Eastwood di Leone, poi ripreso appunto da Corbucci con Django, sempre calcando la mano sulla ferocia. La ferocia qui di Tarantino però ha una forza coreografica più sontuosa, cioè gli spari aprono buchi e il sangue zampilla come da un geyser ematico. Quindi c'è comunque una estetizzazione di tutto quello che era un cinema povero e basato su guizzi di inventiva. Nello Django finale c'è, come Clint Eastwood per un pugno di dollari, Franco Nero ha le mani fracassate dagli zoccoli dei cavalli, a un traditore viene tagliato l'orecchio e gli viene dato da mangiare, poi gli si spara nella schiena, citazione poi che Tarantino riprenderà nelle Iene. Quindi c'era un eccesso di crudeltà, però fatto con mezzi poveri, era la voglia di imporsi al mondo con dei trucchi di questo tipo. Invece Tarantino riprende tutto questo e lo ricolloca in un mondo sontuoso, con molto denaro, con molta lussureggiante, ecco, dal punto di vista. Però c'è una citazione manieristica di certe cose. E lui cita anche se stesso, cioè la citazione alla famosa carneficina degli 88 folli di Kill Bill, recuperata con Django che fa un massacro fondamentale di cattivi. Sentiamo Matteo, ascoltatore 24enne, buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottor Nicoletti, mi fa piacere insomma intervenire nella sua trasmissione che ascolto molto spesso, e mi fa piacere intervenire in questa occasione perché sono un fan di Tarantino, sono veramente un fan di tutti i suoi film, l'ho visto in anteprima, l'ho visto venerdì appena uscito al cinema qui a Rieti, e sono contento insomma di poter parlare di questo film. È un film, ovviamente lo dico da spettatore, da appassionato, che incarna completamente il cinema di Tarantino, è un omaggio che lui fa al cinema in generale, al cinema italiano. E anche a se stesso, diciamolo. Certo, ovviamente anche alla sua infanzia, lui sappiamo quanto sia legato al cinema italiano, a quel tipo di genere, a quello dello spaghetti western, se vogliamo. E mi ha impressionato molto come lui ha affrontato tematiche molto difficili, molto ferite ancora probabilmente non rimarginate del suo paese. Si è andati oltre in America, ma magari temi come la schiavitù, lo schiavismo e il razzismo a volte sono stati accantonati e superati senza però fermarsi un po' troppo a parlarne. È un film che se fossi afroamericano sinceramente lo andrei a vedere, uscirei dal cinema sentendomi davvero molto molto contento di aver visto questo personaggio. È il secondo episodio, tra l'altro, credo insieme a Bastardi senza gloria, di una trilogia, credo lasci spazio ad un terzo, perché Tarantino ultimamente sta manipolando la storia, sta provando insomma a riscriverla dalla parte dei vinti, e questo è sicuramente un esercizio di stile e di classe che ecco, come si spiega lei che invece questo film è stato accusato di un comportamento scorretto nei confronti appunto della schiavitù, del tema della schiavitù in generale, perché usa un linguaggio che non è quello convenzionale e perché lo riporta alla crudezza estrema? I bianchi sono cattivi veramente, usano i negri come oggetti e li fanno mangiare dai cani, godono nel vederli scannare in dei combattimenti ferocissimi, non hanno problemi a farli a pezzi, a castrarli, a mutilarli, insomma li usano come fossero dei pupazzi nelle mani di bambini viziati. Ma ovviamente viene anche un po' esagerata, esaltata questa situazione, e lo fa apposta Tarantino proprio per ricreare il dibattito intorno al tema, ma credo che le critiche ci siano state con Spike Lee, tra l'altro critiche non nuove, perché il regista americano non è la prima volta che critica Tarantino, abbia la miglior risposta nel fatto che Tarantino abbia ricevuto anche delle nomination per questo film, per quanto riguarda ovviamente in Africa, e per quanto riguarda il fatto che gli afroamericani sono andati in massa al cinema. Tra l'altro credo di non sbagliare se dico che Tarantino, presente anche lui nel film con un cameo, sì, in una scena del film, sia l'unico a citare la parola nero e non a utilizzare la parola insomma un po' più volgare, che non sto qui a ripetere. Quindi anche quello, sì, vabbè, credo... dire negro mica che uno, cioè, si spara, no, abbiamo, no, spiegato più volte in questa trasmissione, cioè. È la traduzione in termini inglesi che è dispregiativa, esatto. Per noi non dovrebbe avere questo. Poi il disprezzo è nell'anima di chi pronuncia la parola, non è nella parola in sé. Grazie Matteo. Antonio. Dunque, buongiorno Nicoletti. Io sono un poco a favore di Tarantino, perché io penso che uno che dice così apertamente, forse ingenuamente, che si ispira agli spaghetti western, stiamo attenti che gli spaghetti western sono la decadenza anche del western, ma soprattutto... Oddio, mi sta venendo... Aspetti. Scusi, non riesco a fermare un dolore al cuore terribile, le sue parole mi fanno avere... Prego. Scusa, io sono molto di parte con Tarantino. Prego, vada avanti, cercherò di tenere da parte... Senta, giustamente ha detto un critico italiano, Tullio Kesic, che questo è il... Oddio, cinema... no, ho detto Tullio Kesic! No, non riesco a resistere, mi dispiace. Mi scusi, ma è più forte di me. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei. Si attento alle citazioni, che stamattina abbiamo come Django il grilletto un po' facile. Con Tarantino è difficile non riuscire a partecipare, diciamo. Niente, volevo dire questo, io il film l'ho visto. Intonti si dissocia la nostra linea, prego, vada avanti. È bellissimo, mi è piaciuto tutto, la fotografia, i dialoghi. E lo splatter che Tarantino mette sempre nei suoi film. E avevo sentito già in precedenza di questa polemica sul razzismo, che pur vedendo il film non mi ha tolto il dubbio, cioè io non vedo tutto questo, perché si arrabbiano del razzismo? Cioè, perché? Beh, perché, perché non è raccontato con la presa di distanza culturale con cui dovrebbe essere preso il tema. C'entra dentro con i gomiti, ci affonda con i gomiti fino in fondo, e poi fa vedere come in certe situazioni di oppressione, di cattività, non esiste al 100% quella solidarietà. Il vero cattivo, il vero antieroe è proprio un nero, è il Samuel Jackson. Samuel Jackson, che è il capo della casa, è il capo praticamente a tutti gli effetti. Il capo, ma comunque in ogni caso l'accusa di razzismo è fuori luogo, perché Tarantino guarda il mondo subspecie cinematografica, sono tutte reinvenzioni giocose con uno sguardo che lui alla soglia dei 50 anni mantiene ferocemente infantile. Questa è un po' la chiave anche di riguardo al cameo, la citazione che ha fatto il nostro ascoltatore. Molte volte Tarantino appare nei suoi film, fa sempre una fine tragica, in questo caso esplode con la dinamite, non ne rimane nulla di lui. Tra l'altro, col più passa del tempo, più assomiglia ai tratti un po' feroci di Bruno Contrada, non so se hai notato, che ha quel ghigno un po'... È molto po' ingrassato. È ingrassato, però funzionale per queste parti infami. Diavolo! Non vedo un cazzo di niente con questa parte. Siamo pronti o no? Un momento, combatta con sti cazzi di buchi. Cazzo. Ho fatto peggio. Ma chi ha fatto questi cosi di merda? La moglie di Willard. E fatevele da soli le maschere. Senti, non stiamo dicendo che non apprezziamo quello che ha fatto Jenny. Se non avessi altro da fare che un buco in un sacchetto, giuro che lo tagliavo meglio di così. E tu, Robert, ci vedi? Mica tanto. Cioè, se non muovo la testa, tutto sommato ci vedo, più o meno. Ma se cavalco, il sacchetto si sposta tutto e allora vado alla cieca, capito? Cazzo. Ora il mio l'ho strappato. Io trovo che non ci sia maniera migliore per ridere, per svergognare, per far sentire a livello più infimo della possibilità umana di avere un pensiero gli uomini del Ku Klux Klan, facendo vedere questa ridicola cosa in cui una moglie di uno aveva fatto i cappucci ai guerriglieri della notte, si accorgono che non riescono a vedere, quindi non possono linciare i neri. Questo è un proto Ku Klux Klan, e qui c'è Tarantino al suo meglio, perché impiega Don Johnson, lo strappa dalle strade lussuose di Miami Vice e lo rimette qui imbalsito a capo di questo proto Ku Klux Klan. E questi incappucciati che citano, gli incappucciati rossi razzisti del primo Django di Corbucci, appunto, sono alle prese con la quotidianità dell'orrore, la banalità del quotidiano dei carnefici, quindi queste mogli che cuciono questi cappucci. E qui c'è la grandezza, perché c'è tutto Jerry Lewis, c'è tutto il Mel Brooks e forse anche un po' il Monty Python, però ferocizzato da Tarantino, e questa è la sua abilità nella costruzione di dialoghi che rimane immutata. Sì, invece di rappresentarli come antieroi fiammeggianti, crudeli, infimi, ma allo stesso tempo con un senso di aura quasi eroica, come sempre è stato nei film, li fai dire per quello che sono: dei cialtroni, degli esseri meschini, infimi, ottusi e senza fantasia, e per questo vanno lì a massacrare il nero, perché penso che quella sia la cosa migliore da fare, come in realtà lo sono in effetti, come lo è chiunque abbia dei pregiudizi. Il pregiudizio è non avere una loro gloria. Se il pregiudizio non è glorioso, se è di basso cono, come quello può essere di un razzista che legato al colore della pelle, non merita assolutamente pietà. Federico Mancusu, buongiorno. Sì, buongiorno. Io. Federico Mancusu, oltre a essere un melogmane, e lo dico con grande orgoglio e grande onore, è la persona che è stata scelta da Tarantino per rappresentare, diciamo, la grafica di questo film. Racconta com'è la tua storia. Sì, partiamo dall'aprile 2011, quindi parliamo già di 2 anni fa, quando il film ancora non lo stavano girando, era appena uscito il titolo sul web e uno straccio di sinossi. Io mi sono messo subito all'opera e nell'arco di 2 o 3 giorni ho pubblicato sul mio sito questa locandina che poi, a distanza di qualche mese, è stata pubblicata sulla pagina di Facebook di Tarantino, che all'epoca era iscritto appunto sul social Ma come network. Ti ha ispirato te? Perché la locandina richiama chiaramente il cinema italiano di genere, il western italiano. Ma io sono un grande appassionato di cinema di genere, di spaghetti western, quindi mi sono documentato, sono un collezionista di locandine, di libri che parlano di poster, quindi è venuta molto naturale, io l'ho pensata subito. Poi quando fai una cosa dedicata a Tarantino ti vengono proprio di getto, perché secondo me è un regista che sa stimolare molto la creatività. Io infatti, dopo aver visto Kill Bill, la mia vita creativa è cambiata, posso ammetterlo. E quindi niente, un amico gliel'ha pubblicato. Tu parli con una persona che è stato costretto a Natale a regalare a suo figlio un attorianzo, quindi figurati, che sarebbe la katana di Kill Bill. Sì, sì, sì. E mi ha detto che è stato il regalo più bello che ha avuto in vita sua. Quindi. Penso un po'. E quindi niente, Tarantino appunto l'ha vista sulla bagaglia Facebook e dopo 2 o 3 giorni sono stato contattato dalle case di produzione che mi hanno appunto inviato una serie di contratti per acquisire appunto il... Quindi a tutti gli effetti tu sei, diciamo, nella locandina del film come l'autore di quella della grafica che lo rappresenta, che è una catena stilizzata. Per fare tutto poi il resto delle grafiche eccetera sono basati sulla mia locandina. Poi la mia l'hanno usata soprattutto durante le riprese, quindi posso essere orgoglioso. Ho trovato appunto delle fotografie dove ci sta la sedia di Tarantino che ha usato durante le riprese con il mio disegno, il ciak, tutto l'abbigliamento che hanno fornito alla crew, e quindi ne vado molto orgoglioso. Allora fermati un attimo, Federico Mancoso, resta in linea con noi, visto che una persona documentata come te c'è utilissimo. Vorremmo parlare, dopo le informazioni della borsa, anche dell'aspetto dei vestiti, della grande cura, perché è fantastico. Django inizia scalzo, con macilento, con le catene ai piedi, seminudo, con una coperta addosso, che cammina nella foresta, e l'ultima scena ha un vestito fantastico, dice, perché il Bordeaux gli sta bene dopo aver massacrato e schizzato di sangue le pareti della villa del suo nemico. Melog, la realtà condivisa. La presenza della frenologia è cruciale per la comprensione della separazione tra le nostre due specie. Nel cranio dell'africano qui, l'area associata con la sottomissione è larga più di qualunque umana o qualunque altra subumana fra le specie sul pianeta Terra. Se esaminate questo pezzo di cranio qui, noterete 3 distinte fossette. Qui, qui e qui. .800 24 0024, questa mattina parliamo di Quentin Tarantino e del suo ultimo film Django, che abbiamo visto ieri per i nostri ascoltatori, che vedo divisi comunque, c'è un insistente e compulsivo ascoltatore che mi sta scrivendo lo stesso messaggio, mi ha mandato la 10ª volta come sms, andate a fanculo voi e quello psicopatico di Tarantino. Detto questo, altri invece lo hanno visto e ne apprezzano comunque la linea paradossale, l'assolutamente originale lettura dell'universale, anche se quanto vuoi suscettibile ad ogni critica, ma perlomeno originale, l'ha fatta lui, non l'ha fatta nessuno prima, nessuno come lui ha infilato le mani fino ai gomiti in quella che veniva considerata la spazzatura espressiva degli ultimi decenni, e riuscito a trovarne appunto un nesso poetico. Quello che abbiamo sentito in apertura è uno dei punti cruciali, secondo me, questo film, nella famosa cena delle beffe in cui si scoprirà il gioco appunto di Django e del suo alleato dottor Schultz, una volta che Kelvin Candy, cioè Leonardo DiCaprio, ha scoperto il gioco di questi due, che non vi rivelerò, non voglio fare uno spoiler totale del film. Prima di passare all'azione, si presenta con una valigetta a tavola, prima di servire la famosa torta bianca, presente la integerrima e ammuffita sorella, tutti i suoi scagnozzi, e tira fuori un teschio. È il teschio di un nero che ha allevato lui, quindi il suo tutore, quindi c'è una citazione shakespeariana. Lui, di fronte al teschio della persona che lo vide bambino e gli fu da tutore, spiega la sua teoria organicistica per dare un senso di inferiorità ai neri. Sega appunto il cranio a metà e trova 2 fossette all'interno del cranio, e dice, per la frenologia corrisponde alla realtà, questi studi vengono fatti nel tempo, dice, queste 2 fossette è la parte del cervello più sviluppata in cui c'è la sottomissione. Altri uomini bianchi, in realtà, come i grandi geni, queste fossette le hanno nel cervello dove è la parte dedicata al genio. E così aveva risolto, si era giustificato del fatto che lui tenesse come animali gli uomini neri. Sì, l'illuminismo distorto del frenologo DiCaprio, e qui si nota tutto l'amore di Tarantino, non solo per il cinema, ma per l'attorialità, è quello che si diceva prima. A volte c'è una sorta di brechtismo latente in tutti i film di Tarantino, cioè ogni personaggio incarna per l'appunto un personaggio e lo mostra in quanto tale. Secondo me la chiave di apertura di tutto il suo cinema è anche nelle Iene, quando c'è la scena della storia del cesso, quella in cui l'infiltrato deve recitare la parte del delinquente. È una sorta di prologo di apertura. Lui, i suoi personaggi, che sono citazioni di un mondo cinematografico passato, in realtà incarnano un personaggio. È uno scontro dialettico quello che avviene fra Christoph Waltz e DiCaprio in questa scena. Non è tanto la violenza poi sarà coreografica, ma è proprio uno scontro di diverse attorialità, di diversi monologhi, e questo è molto interessante. DiCaprio al suo meglio, insomma. Sì, DiCaprio mostra la sua teoria sul cranio del nero per dimostrare l'inferiorità della stirpe nera nei confronti di quella bianca. L'altro ribatte poi alla fine, poco prima appunto del gesto che causerà la tragedia del film. DiCaprio si dava grandi aree di raffinatissimo, un parvenu, si diceva di origine francese ma non sapeva parlare il francese, quindi non bisognava parlargli francese, ma gli piaceva che si citasse comunque la Francia, come allora, come oggi potremmo dire, adesso non so, era la summa di tutte le raffinatezze. E lo prende anche in giro, dice: tu hai uno schiavo, chiamavi D'Artagnan. Lo fa mangiare, sbranare dai cani sotto i suoi occhi. Dice: tu non sai che Alessandro Dumas era nero, cosa non vera naturalmente. Poi gli fa credere che Alessandro Dumas fosse nero, aveva una biblioteca bellissima piena di libri, non aveva letto nessuno, questa era la sua colpa. Lorenzo, buongiorno. Lorenzo, buongiorno. Sì. Complimenti, bravissimo Nicoletti come sempre. Io ho visto il film, mi è piaciuto un sacco, bello tutto, così volevo un paio di osservazioni che ho fatto. I nomi degli attori erano inventati, secondo me, come succedeva negli anni 60 negli spaghetti western, che c'erano questi attori magari di seconda fila con nomi italianissimi che si chiamavano John qualcosa, eccetera, e lì secondo me erano proprio, anche questa è una cosa fatta apposta. Poi una scena che mi è piaciuta molto è quando il protagonista Django è costretto ad arrendersi verso la fine e parte la musica di Richie Evans, Freedom, appunto, quella di Woodstock famosa, e sembra quasi un controsenso, perché l'unico momento in cui viene preso, e probabilmente lui crede che sarà ucciso, e parte questa musica bellissima, Freedom, appunto, una libertà nel momento in cui lui viene preso prigioniero. Sì, la scena dopo lui è appeso a piedi in aria, incappucciato, e stanno per tagliargli il pisello con un coltello, quindi fino a un certo punto era proprio l'anticamera del momento peggiore per lui. Sansonna, su questa storia dei nomi, nella lotta dei due neri, di cui Franco Nero è il padrone di uno dei due lottatori, quello che perderà, lo chiama Luigi. Perché lui è un italiano, in realtà, nell'America del Sud. Franco Nero incarna una vicenda realmente accaduta di italiani che erano lì e quindi partecipavano anche alla vita di quei tempi. Poi c'è anche un altro riferimento italiano, tornando al discorso della cronologia, cioè Addio zio Tom di Jacopetti è stato mostrato dagli attori da Tarantino. È un po' il padre nobile o ignobile, a seconda dei punti di vista, insieme a Samuel Fuller, di questo Tarantino che affronta il razzismo sotto questa specie metaforica del cinema. Solo che Jacopetti c'era più un attaccamento alla vita, invece Tarantino appunto viene dal cinema e rende più favolistico e più infantile il suo sguardo rispetto a quello di Jacopetti, che era anche c'è una scena geniale di Addio zio Tom in cui i turisti negli anni 60 vanno in America del Sud e allora i neri locali e i bianchi si travestono da schiavisti e da schiavi per vendere come folklore la loro memoria anche dolorosa. Questo gliel'ho trovato un guizzo geniale di sintesi e di capacità metaforica di cogliere il proprio tempo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Volevo solamente sottolineare una cosa che avete già parzialmente accennato prima, cioè c'è Tarantino che in questo film ancora una volta cita se stesso in una maniera molto forte. Tanto per cominciare, il dottor Schultz, che non è altro che Hans di Bastardi senza gloria, uguale, con lo stesso accento, cambia veramente solamente la... Qualcuno dice che è un riscatto, lì fa il nazista più cattivo del mondo, qui fa il tedesco più buono del mondo. Però non proprio buonissimo, anche lui. Vabbè, è un Nobel, cioè è un massacratore di cattivi, dai. Sì. Da 12.000 dollari come niente per pagare la moglie di Django, quindi poverino. Esatto. Controverso, diciamo. E l'altra citazione, secondo me l'avete già accennata prima, ma è molto più che una citazione, è proprio un remake praticamente del massacro degli 88 folli, dove addirittura Django si rivolge a Samuel Jackson e gli dice: tu no, cioè dopo aver detto agli altri neri potete andare, che è esattamente quello che Beatrix disse a quelli dei sopravvissuti, dice tu no Sophie, Beatrice, all'aiutante di Bill. E gli mozza il braccio. Esattamente. E lì gli spara una gamba, quindi più o meno. Quindi niente, lo straordinario Tarantino, di cui io sono veramente un grandissimo fan, e li ho veramente tutti, e non vedo l'ora che esca il nuovo Blu-ray di Django per completare la mia raccolta. E grandioso anche sotto questo aspetto. Allora, quello che mi dice Fabrizio Intonti, mi sta scrivendo, dice che in realtà chiamano soltanto uomini, non chiamano donne. Esiste una porzione di pubblico tarantiniano? E questa mattina ho fatto un ardito esperimento, devo dire che funziona, mi sto divertendo come un matto. Non avrei mai immaginato che nel pubblico della mattina, delle 10, che uno pensa composto di persone umarellicamente occupate in nulla che abbia a che fare con le giovanissime generazioni o con signore che stanno in casa e via dicendo, ci fosse una così folta rappresentanza di fan di Tarantino, che apparentemente per amare Tarantino bisogna avere una mentalità molto elastica. Non si può amare se uno ha degli schemi mentali fissi, soprattutto se uno ha una visione proba dell'esistenza. Non avere una visione cattiva, crudele dell'esistenza, e quindi molto creativa. Melog, la realtà condivisa. Bettina, dolcezza, ora tu prendi Django e gli fai vedere le terre con tutte le sue beltà. Come ti pare, Big Daddy? Mr. Bennett, devo rammentarvi che Django è un uomo libero, non si può trattare come uno schiavo, e entro i limiti del buon gusto va trattato come un'estensione della mia persona. Ho capito, Schultz. Bettina, dolcezza? Sì, padrone? Django non è uno schiavo. Django è un uomo libero, lo capisci? Non si può trattare come tutti gli altri negri di qui, perché non è come tutti gli altri negri di qui, è chiaro? Tu vuoi che lo tratto come uomo bianco? No, questo io non l'ho detto. Allora non so che vuoi, Big Daddy. Sì, lo vedo. È fantastico che qui non esistono altre categorie, esiste il bianco e il nero. Non esiste una possibilità di un nero affrancato che possa avere un trattamento adeguato alla sua dignità di essere umano. Quando appunto la schiava, la piccola schiava, dice a DiCaprio: ma come vuoi, come devo trattarlo? Come un bianco? No, io come un bianco non te lo direi mai, ma allora come devo trattarlo? Non esiste un trattamento intermedio, o è bianco o è nero. Federico Mancosu, ti ho lasciato in ascolto in tutta la seconda parte, però adesso vorrei da te qualche citazione. Tu hai mai avuto occasione di parlare o di incontrare, di avere un contatto diretto con Tarantino? Ricordo ma che Mancoso è l'autore, diciamo, della locandina, del logo del film Django. Tarantino l'ha visto su Facebook e l'ha fatto suo. No, purtroppo no. Sono stato a Los Angeles in viaggio di nozze pochi mesi fa, dovevo incontrarlo, però stava montando il film. Dovevo incontrarlo durante l'anteprima a cui ho preso parte qui a Roma, però non c'è stato modo perché i tempi erano molto ristretti. Ha preferito andare a mangiare a Trastevere piuttosto che vedersi il film in sala con tutti gli altri. Ma anche perché se l'era già visto, probabilmente. Sì, no. Infatti, no, altre citazioni, ecco, abbiamo scoperto durante la visione che per esempio Tarantino fa una seconda parte nel film ed è, l'abbiamo riconosciuto dalla voce, ed è uno degli incappucciati del Ku Klux Klan. Ah, c'è un incappucciato che è lui, non lo so. Che è lui, l'abbiamo riconosciuto dalla voce. E poi un altro dettaglio sono i guantini bianchi che indossa Franco Nero, che secondo me sono un dettaglio che riporta, secondo me, all'attenzione, al ricordo delle mani che gli tume fatte nel finale di Django. Sì. Ah, ecco. Che lui appunto veniva calpestato dai cavalli, sì. Lui non riusciva neanche a sparare nella scena finale, e secondo me il fatto che gli abbia fatto indossare quei guanti bianchi così immacolati, come a nascondere le mani massacrate, esatto, secondo me quella è una citazione nascosta. Io penso Mancosu, che da qui a un mese usciranno fuori in rete migliaia di queste citazioni. Il pubblico dei fan di Tarantino vive nel riconoscimento della citazione, ce ne sono tantissime. È un gioco che ci divertiamo a fare. Ad esempio, mi viene da dire, tutte le opere d'arte che lui mette nei posti più improbabili, un Goya in un saloon, una statua classica di Ercole che lotta mentre c'è la lotta dei neri, sono tutte citazioni che poi daranno adito a un'infinità di interpretazioni. Giuseppe Sansone. No, poi c'è anche un tema, al di là delle citazioni, c'è un tema ricorrente che ritorna anche da Pulp Fiction, dove Marcellus Wallace possedeva la donna più ambita, che era Mia Wallace. Qui Jamie Foxx incarna il sogno erotico di una bellezza sfolgorante che poi si verrà esaltata da tutta una serie di evoluzioni nei vestiti. E infatti c'è la volontà bianca di castrarlo continuamente, appunto tu citavi la scena in cui viene appeso e si cerca appunto di accreditare. È il grande complesso dell'uomo bianco di fronte è un archetipo su cui alle gioca. Sproporzionate elefantiche dimensioni di cui si favoleggia nei Mandingo, quindi vuol sempre riportarlo alle misure per non sentirsi in inferiorità. Quello è, infatti è la sorella che suggerisce questa cosa. La sorella dell'ucciso dice tagliatelo, poi si pente, dice no, non glielo tagliate più perché sarebbe un peccato, ma mandatelo nelle miniere a soffrire, a spaccare le pietre e via dicendo. Pasquale Squitieri, buongiorno. Buongiorno amico mio. Ci chiama Squitieri per dire la sua, ma io ho visto che lei Squitieri ha diretto un Django, uno dei tanti Django Sfida Sartana. Sì, ma Tarantino vide il secondo film, La vendetta è un piatto che si serve freddo, in cui io affrontavo un problema che nessuno ha affrontato nel cinema, chiamiamolo western, e cioè gli scalp hunters, i cacciatori di scalpi. Cioè il governo americano e il governo messicano misero insieme una taglia per cui pagavano $50 per lo scalp di un Apache adulto, $25 per lo scalp di una donna Apache e $15 per lo scalp di un bambino Apache. E così cominciò sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti questa caccia all'indiano, al pelle rossa, per cui si creò una sorta di piccola industria su questi scalpi che poi venivano venduti ad alcuni olandesi che ne facevano parrucche. Quando Tarantino vide questo mio film, chiese a Müller, che dirigeva Venezia, di portarlo a Venezia. E così poi ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato a lungo sul cinema, sul cinema italiano, sul western all'italiana, eccetera. E nel western italiano ci sono, di Sergio Leone, del grande Sergio Leone, ci sono degli errori clamorosi dal punto di vista del costume, della storia, del racconto, eccetera. Per cui, però Tarantino, questa storia degli scalpi, che è una storia vergognosissima di cui gli americani secondo me si vergognano tantissimo, perché è paragonabile alle cose più atroci imputate ai nazisti, contare le vittime, donne e bambini, per lo scalpo preso, che era la prova, come dire portami la testa tagliata, era una cosa schifosa, esatto. Però non la cita in questo film, non lo mette la storia degli scalpi, ecco, perché mette la storia dei neri. Allora, qual è il problema della storia dei neri? Che questi neri, e Spielberg ha fatto un film bellissimo su questo, questi neri venivano acquistati dai negrieri italiani, olandesi, francesi, venivano acquistati in Africa da altre tribù che catturavano questi, certo, questi neri e li vendevano, perché non avrebbero mai potuto i nostri avventurieri entrare nelle giungle africane e portare via in quelle spaventose navigazioni 1000 neri, 2000 neri, se non ci fossero state le tribù guerriere che catturavano questi e li vendevano. Quindi era una cosa terrificante il viaggio di questi, la vita di questi neri, eccetera. Ma poi, diciamo la verità, il nero cominciare da Brown e gli altri, il nero in America si redime, cioè ha un'ideologia, l'ideologia dell'aggredito, eccetera. Quelli che invece non hanno queste ideologie e sono massacrati sono i pelle rossa. Cioè l'America si porta sulle spalle il genocidio di un'intera razza. Che non è ancora elaborato, diciamo la verità, perché non è bastata quella spolveratina politicamente corretta che c'è stata negli anni 60 e 70. Il soldato blu, per esempio. Piccolo grande uomo. Il piccolo grande uomo, ci sono stati, un uomo chiamato cavallo, ci sono stati. Un po' tardivamente, per la verità, perché quando io sono vecchio, ma quando ero ragazzo, per me il nemico era il pelle rossa nel cinema americano, non Ombre Rosse, sì. Ombre Rosse è quello, no? Poi tra l'altro Ombre Rosse è tratto da un racconto di Chateaubriand, mi pare, da un racconto De Maupassant, bravo. Squitieri, proprio perché siamo in conclusione, del suo Django mi dice qualcosa? È un cacciatore di taglie, anche il Django che aveva fatto lei, quello che sfida Sartana. Sì, più o meno, sì, ma io ho fatto un film per ragazzi, perché io venivo da un film iniziale che si chiamava Io e Dio, in cui auguravamo con Pasolini e gli altri la rivolta da parte dei cattolici in Italia, la vera rivoluzione, diceva Pasolini, la possono fare solo i cattolici, e io feci questo film che era la storia di un prete di campagna, eccetera eccetera. Dopo, siccome questo film lo vedemmo in cinque, noi che avevamo realizzato, fu un tale disastro dal punto di vista economico che il produttore mi disse: ma tu non saresti in grado di farmi uno di questi filmettini che si fanno? Oramai se ne facevano centinaia in Italia. E quindi ha fatto Django che sfida Sartana, anche su Tieri, stato contaminato dal Django che oggi è in tutte le sale cinematografiche, il successo del momento. Grazie Spiteri, grazie Sansonna, grazie Chiappini, grazie Intonto.